see the sky when you come in my mind. I see your face, I see the dark when you come in my place. Ti sei mai chiesta cosa è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti? Lasciami spazio per prendere quello che ho sempre sognato. Voglio quel posto in cui tutto è migliore. Lascia che bruci più forte a questo calore. Fammi spazio che non riesco più a vedere il sole. Ti scrivo dal mondo dei folli, il mondo dei sogni, quello in cui tu non ci credi. Anche se vedi che qui tutto è più surreale. Il cielo per me non è limite, anche se un limite forse non c'è. Anche se quando ti guardo non vedo più un'alternativa, non posso più credere in te. Te, place inside, it's on my dream with you, and now I am distraction of me, of the reality. I see your eyes, I see the sky when you can keep my mind. I see your face, I see the dark when you can keep my place. Ho scelto qualcosa in cui tu non ne hai mai fatto parte, ho scelto la strada di quello che parte, ma mai per scappare. Se un giorno forse mi vedrai ritornare, rimpiangimi forte, stringimi ancora più forte. Guardati intorno perché a differenza di me, ciò che avevi con me farà parte di un tempo che oramai non c'è. Prendimi solo una volta, poi portati e vattene via. Via da quello che non ti appartiene, via da ciò che non senti, ciò che non conviene. Se mi senti più forte per colpa di una distrazione, sarò come un rimbombo, sarà solo il rumore, sarà come l'amore. The other place, it's on my dream with you, and now I am distraction of me, of the reality. Said I still remember the old place, the clouds. Ho sempre lottato, andando contro tutto, contro tutti, anche contro me stesso. Quando ho smesso di crederci, quando hai smesso di crederci, questo è il mio posto, con o senza di